In diretta dalle stanze segrete di Babbo Natale, va ora in onda Opencast Alpha. Opencast Alpha numero 33. Cominciamo con una vocale questa sera. Che sarebbe la sorella di A. La vocale A l'avevamo già fatta. Poi abbiamo cominciato con la B, poi abbiamo cominciato con la C, la D, adesso sono arrivati alla E. Come le dici la E, bene? È la 33esima puntata. E perché è un gioco nuovo che facciamo da poco. Allora, puntata con Babbo Natale. Tutti posso farti un appunto rosso. Tecnico? Dimmi. Non fare più queste pause. Avete rotto, ragazzi. Cioè, veramente mi state scassando, come si dice? Ti stiamo stressando. No. Ti stiamo insegnando. Allora, nuova puntata di Opencast. L'omino di marzapane. Di marzapane. Ah, posso farti un appunto tecnico? Fallo. Non parlare sugli altri che stanno parlando, sennò non si capisce niente. Allora, aspetto. Hai finito? No. Babà. Allora, Open Cast Alpha numero 33, il podcast tecnologico disimpegnato del gruppo Linux di Como. Di Como. Una grandissima puntata natalizia con tutta musica che il buon Tullio qua a fianco a me, che si sbraccia per chiedere la parola, sì, che non gli daremo, ha scelto direttamente da Giamendo, tutta musica in Creative Commons, anche il pezzo che abbiamo ascoltato che era When Christmas Rolls Around degli Essence of Christmas. Un gran pezzone. Sei in zona... Dovrai respirare. E invece no. Sei in zona alito pessimo, agghiacciante tipo Fogna di Calcutta. Quindi non stare troppo vicino col microfono perché rischiamo veramente grosso questa sera. Abbiamo delle notizie, signori, per esempio vorremmo parlarvi di Android 4.2. Quali sono le novità? Addirittura 4.2.1. Ve le dico subito? Punto punto. Dai dai, spara. Date, ve le sparo subito. Guardate, allora ho aggiornato il mio Nexus che vi saluta tra l'altro. Adesso ciao. Ciao Nexus, la batteria dura sempre di meno, ma penso che sia perché sta invecchiando. Non è l'aggiornamento? Ma non lo so. Non lo so, devo dire che hanno portato delle cose carine. Per esempio, posso accedere alla fotocamera direttamente dalla schermata di sblocco. Posso sbloccare, vado col dito sulla destra e mi accedo alla fotocamera. Scusa, posso dire una cosa? Sì. Io ho una CyanogenMod con l'ICS. Non te la devi tirare, mo. No, no, c'è un pannello di impostazione dove posso scegliere nelle varie posizioni della schermata di sblocco cosa lanciare, tra cui la fotocamera. Che storia. Cioè, una roba che magari faceva già prima, non ho mai trovato. La CyanogenMod però non lo faceva prima il sistema liscio, sicuramente. Sì, certo. Beh, l'hanno inserita comunque molto comoda perché adesso non devo andare a aprire tutto, andare in fotocamera. Però che cosa c'è ancora di carino, molto comodo? Per esempio di molto scomodo ho trovato la sveglia, perché mentre prima la spegnevo adesso devi cliccare sul lucchetto e se vai a sinistra c'è ZZZ, vuol dire stai zitto, della serie voglio dormire. Lo snooze. Se invece vai a destra c'è l'occhio, come zitto, dire zitto, l'ho zitto. Vista. Il problema è che la prima volta che l'ho provata erano le 7 del mattino, non sapevo più dove cazzo andare e mi sono alzato. È stato brutto alzarsi. Cioè, no, una sveglia, scusami, che ti fa alzare, cioè, vuol dire che funziona. Non è una definizione sveglia di sveglia. Sveglia e te. Sì, mi ha fatto alzare, ma è la mia sveglia, io la metto 10 minuti prima perché poi devo dormire, no? Ancora. Ma non ha senso. No, un pochino ce l'hai. Io voglio lo ZZZ che la spengo un paio di volte. Che comunque ho un impatto soft con la realtà. Dico, sto ancora un po'. Va bene, bene, tra le altre novità, a parte questa della sveglia che un po' non mi è piaciuta, segnaliamo per esempio l'implementazione di alcune nuove funzioni su Google Now. Per esempio mi recavo nella ridente cittadina di Como l'altro giorno per il lavoro e... Di Como o di Como? Como, Como. Como. Como. Como mi piace usare l'addizione. L'addizione ti piace l'addizione, usare. Però cercherò di dirlo liscio in modo che non lo notiate molto, GL Como. Va bene. Sì, giovane. GL Como. Da bere. No, da bere si dice normale. E insomma mi ha proposto per esempio Google Now delle immagini di luoghi nelle vicinanze che avrei potuto visitare. Se non puoi vuoi una un po' di vino? No, grazie. Se non puoi visitare quei luoghi perché ci lavori, beh, magari potrebbe risultare comunque utile in un'altra città. Altra cosa molto interessante, la possibilità di scrivere SMS e messaggi mail eccetera tenendo schiacciato il dito sul schermo. Cioè tu tieni schiacciato il dito sullo schermo e il messaggio si scrive. Esatto. E lui scrive. È strano. No, sta come cosa, dire, io praticamente devo dire ciao, schiaccio la C, poi mi trascino col dito sulla I, sulla A, sulla O e lui capisce. Questa era un'opzione. Ciao. Swipe. Esatto. Okay. Swipe, esatto. Ma quindi vale la pena o non vale la pena questo aggiornamento? Ma poi sono... Beh, alcune cose sono state velocizzate, io direi che ne vale la pena, ci sono anche delle minor update, però... Ma l'hanno risolto il bug? Cioè queste sono le cose che di cui mi sono accorto io. Beh, è chiaro, la 4.2 che c'ha questo bug fantastico in cui manca praticamente il mese di dicembre. È una cosina. Ci hanno voluto fare uno scherzone. Era lì, comunque, diceva... Ci hanno voluto fare uno novembre. Scherzone. Novembre. Dice, tanto non se ne accorge nessuno. Gennaio. I programmatori. No, ragazzi, scusate, ma... In occasione della fine del mondo i programmatori ci hanno voluto fare questo scherzone. Ho detto, sapete che c'è, non lo mettiamo il mese di dicembre, porta male, eccetera, sa, ma eccetera. È un po' come il 13° piano, la stanza numero 17 negli alberghi, queste cose qua. Scusate, ho una comunicazione che mi arriva dalla regia. Allora, è il 21/12/2012 e in Nuova Zelanda sono tutti vivi. Perfetto, no, perché vorrei informare voi che ci state ascoltando belli e gioconi sul pullman. No, sul che pullman, sul pullman, ma questa è la puntata di Natale. La puntata di Natale, per cui ci state ascoltando belli e giocondi con la panza piena sul divano e completamente imbriachi. Esattamente, non capirete molto. Imbriachissimi. Che noi stiamo registrando praticamente molto alla vigilia dell'evento storico della in cui fine il mondo, del mondo. Esatto, per cui non è detto che ci sentirete. Perché stiamo registrando a sto punto? Ma non eravamo in live. Ma no, che in live. Oh. Cioè, fammi capire come fa a essere in live un podcast. Comunque. Ci sono stati tempi migliori. Ma io vi sento. Tu ci senti, sì. Io vi sento. Bene, e quindi sono tutte rose e fiori? Comunque, sono rose e fiori, no, ci sono anche del... qualcuno dice che si mangia un po' di batteria, qualcuno dice che si è rallentato il sistema, è diventato instabile. Ma se si mangia la batteria poi balla dentro? Non lo so, però se gli date del brioschi sta meglio. Senza voler fare pubblicità occulta, ok, dategli anche del Krastan, va bene lo stesso. Adesso li deve dire tutti. E il signor Krastan nasce in Svizzera. Sapete che nasce veramente in Svizzera il signor Krastan? E poi si trasferisce in Toscana e fa quelle robe lì. Sì, sì, perché ha cominciato a mangiare il popcorn delle guicinghiali. Ma non ha fatto solo il bicarbonato, fa anche l'orzo. Orzo bimbo. Tipo Orzo Bimbo. Vogliamo dare altri nomi? Vogliamo fare altra pubblicità occulta? Bene, allora io passo la palla dopo aver parlato di Android 4.2.1, che vi dico, provatelo se avete la possibilità, se avete un Nexus, altrimenti aspettate che il vostro carissimo produttore decida di spararvelo sul vostro telefono, se perché lo decida, insomma. Benissimo, allora a questo punto direi che il nostro buon Tullio ci potrebbe far ascoltare un altro bel brano natalizio. Tutti scelti da me. Tutti scelti da lui. Un brano che braniamo. Un brano che bramiamo è una cosa, è la frase più difficile che gli ho mai sentito dire. Branatelo allora. Sbranatevelo. Mi sto imparando. Vai. Opencast Alpha, puntata numero 12.032, 48 di ISO 3, 34. La sentite la musica? La sentite? Anch'io. La vera domanda è se sentivano te. Non lo so. Perché siamo entrati così d'amblè. La vedi la barra quella blu che piano piano si colora? Tu hai cominciato a parlare. E tu hai tirato su? E tu hai cominciato a parlare. Sei proprio una carogna. Cioè, lo vuoi fa far sentire finale? Vogliamo far sentire finale? No, perché spacca. No, spacca, senti. Adesso basta perché mi sono rotto, però al finale spaccava. Spaccava. E... comunque, Opencast Alpha, tutta musichetta libera, tutta musichetta che vi trovate su Giamendo. Questi qui erano i Fufi. No, erano The Experiments con Smells Like Christmas Spirit. Ragazzi, ma lo sapete che l'Arduino lo trovate anche nelle macchinette delle merendine? Ma va? È una cosa troppo figa. Ci sono le patatine, c'è le brioche, esatto, le M&M's, il Ringo, i Loacker. Allora, no, io non stavo dicendo ma come cavolo è che lo fa? È impossibile. Io non capisco, non ho capito, vabbè. Ma, cioè, è perché si avvicina a Natale, lui spera. È circondato da prodotti closed e c'è questo Open che è Arduino, cioè sia versione Leonardo che uno. Va bene, ok. E quanto costa nella macchinetta? 25 euro. Come a comprarlo normalmente? Sì. Okay. Sì. Però è figo, ti cade per terra, bello. E si spacca, credo. E ti fai un toast e un Arduino, tipo. un tramezzino e un Arduino. Sono quelle pause pranzo interessanti. Immagino tutte e due, Perino, tramezzino, Arduino. E beh. Che cretino. Non è male. È un po' sì. Sì. Comunque, a proposito di Android, io ti volevo dire una cosa. Sì. È qualche giorno che succede una cosa strana al mio Android. Al tuo Android? Sì. Quando mi chiamano o io chiamo e lo schermo dopo qualche secondo diventa tutto in nero, non torna più colorato, anche quando voglio attaccare la chiamata o che. Ti sei voluto comprare quel coso che lo attacchi a una cosa diventa un'altra cosa, che lo attacchi a un'altra cosa ancora diventa un'altra cosa, e tre cose insieme che cazzo pretendi? Ma che almeno una cosa funzioni. No, ne hai volute tre, è così. Ma non, dici che non è l'Android? Non sono specialisti che non sono. Non sono. Non sono, perché io no, perché l'altro giorno sono andato a Biasca per una fiera dell'open source e se devo tirare un saldo della giornata, devo dire che mi è piaciuto. È arrivata una signora l'altro giorno, mi fa il saldo. Era svizzera. E lui ha detto: ah, io signora, che cosa ha bisogno? No, facciamo un maialino. Facciamo un porcetto. Mi fa il saldo. Porcetto. S di Biasca. Comunque, guarda, mi dispiace molto per il tuo device. Spero risolveranno con un aggiornamento. Sarà sicuramente un bug. Che versione hai di Android? Ma è l'ultima. La 4.2.1. Ma anche tu? Forse 4.2 e basta. Ma sarà la 4.1. Basta, fai fatto vedere. Guarda se c'è dicembre. Guarda se c'è dicembre. Ecco. Se c'è dicembre è la versione vecchia. Mi spiace. La versione nuova è stata eliminata. Basta. Ci siamo messi d'accordo. Nuova convenzione internazionale. No, è vecchia. Eliminiamo dicembre. A proposito di 404, sei indietro, fratello. A proposito di Android e applicazioni, vi vorrei segnalare la presenza della beta test in corso di Xbox Media Center, noto praticamente Media Center appunto. Multipiattaforma o nota Xbox, disponibile su Windows, Linux, Company, anche come standalone, in pratica un Ubuntu con dentro Xbox Media Center. Adesso è disponibile anche per Android. L'ho installata sul mio Nexus. Beh, chiaramente sul mio Nexus ha poco senso perché comunque il display è quello che è, però su un tablettino con HDMI potrebbe essere una soluzione interessante. Potrebbe aver senso anche su questi televisori moderni che installano le apps. Sì, questi televisori stile con gli Android. Se no, vi comprate un nuovissimo BeagleBox, come si chiama? No, ci sono quegli aggeggini grandi come una chiavetta USB che hanno da una parte l'alimentazione, dall'altra parte l'HDMI che fa girare Android e l'attacchi al televisore a posto. E vai, infatti c'è la versione per Xbox Media Center per per il Raspberry Pi. Interessante anche questo. Interessante, perché comunque il Raspberry è un cippettino di decodifica dei flussi quindi ce video, la fa. Ce la fa, anche se il processore di per sé è abbastanza debole. Quindi un Media Center con 25 euro, quant'è che costa? Sì, certo, poi vabbè, bisogna metterci pure una scheda. Un televisore almeno. Però almeno un televisore. Non male, signori, davvero non male. Interessante, penso che noi qua di Opencast faremo qualche esperimento nei mesi a venire. Del tipo, ti compri un Raspberry. Ma cacchio, ma... E ci fai sapere come funziona Xbox Media Center. Tu non puoi dire più volte Raspberry invece di dire tutte quelle marche. Raspberry. Vediamo se stai attento. Raspberry. Che poi cambia nel tempo. Raspberry. Ti prendo Raspberry adesso. Guarda, stai attenzione perché passa da Rasp a Black in un attimo. Se non la smetti. No, smettila. Smettila. È così, è sponsorizzato, nonostante sia Natale. Attenzione ragazzi, è Natale. Il Pinot Rosé, devo dire che ha veramente fatto colpo questa sera. Abbiamo capito cos'era, Che cos'era? Quello che ti dava il brio. Quella carica. Se volete vi posso tirarmela un attimo? Vai, no. Dai, vai. Me la volevo tirare perché mi hanno accettato la beta test di Ingress, nuovo gioco, Nuovo gioco per piattaforma Android, molto sborons. Quindi diciamo che hai un'altra app per non fare un cazzo. Esatto, e devo provarlo perché c'è anche la realtà aumentata, a quanto pare. Ma non avevamo già parlato Opencast, forse? No? Mi pare di sì. Forse due puntate fa. Esatto, non so se ne avevamo parlato. Comunque, questo gioco, diciamo, distribuito sul pianeta, dove si gioca in realtà aumentata attraverso lo schermo del telefonino. Ma come distribuito sul pianeta? Nel senso che lui è qui e gioca qui a Como. In realtà, comunque, gioca un cazzo perché tutti i punti interessanti. Diciamo che tu devi muoverti nella città. A Milano ci sono dei portali, devi prendere dell'energia, devi sottrarla alla fazione opposta. La cosa interessante è che invece di essere a casa davanti allo schermo a vedere il tuo omino che va per vedere i portali, tu devi muoverti fisicamente per la città e con la pioggia, la nebbia, è un gioco per tassisti. Sì, un po' o per gente che prende il bus. Il suo vero problema è che dove abita lui non c'è un cazzo. Dovrebbe partire e andare a Milano tutti i giorni. Tutti, tutti. Dice, no, esco, dove vai? Vado a Milano, perché? E vado a giocare. No, c'ho un portale da distruggere, glielo devo hackerare. Ci sono quei 10 minuti di tempo libero, gioco un po', vado a Milano. Comunque a Milano. Sembra veramente qualcosa di interessante, l'interfaccia è molto sboros, molto scritte che scrivono fuori. Insomma, da videogioco. Sai quella roba lì, tipo livello di sicurezza DEFCON 4? Quella roba è super sboros. War Games. Tra l'altro vorrei ricordare, facciamo la rubrichetta retro gaming, abbiamo la base dalla regia. Sì. Aspetta. Rubrichetta retro gaming, vorrei ricordare il gioco War Games del 1982 per piattaforma ColecoVision, che una volta capito come funzionava, ragazzi, era veramente una bomba. Ricordiamo che su ColecoVision avevamo un joystick con ben 9 tasti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 asterisco cancelletto, cioè, che ho visto mia mamma usarlo come telefono alle volte. Era un telefono. Sì, l'ho visto che ha provato a telefonare. Fa, era come primi funziona? Esperimenti di SIP. Questo coso qua io non voglio sapere nessuna cosa. E quindi questo gioco? Questo gioco era veramente tanta roba, War Games, sì, in versione così, e distruggevo tutto. E quindi, tornando al gioco originale, passerai queste vacanze natalizie, che sappiamo che hai, cos'hai, un mese, due mesi di vacanze natalizie. Ma anche no, diciamo che ho preso solo mezza giornata. Perfetto, questa mezza giornata andrà a Milano e giocherà, perché ricordatevi che è Natale. Ma secondo voi, in quei posti dove dovrà andare per arredare casa, quei posti con la I... Dici che c'è... In quei ci posti, saranno? C'è qualche portale? E penso. Non lo so, lo scopriremo solo. Costruiti, se vi piace, se vi piace lo stile War Games, vi consiglio il gioco DEFCON, che è un giochino che è uscito qualche anno fa ormai, niente grafica ma tanta strategia, e intriffa molto a quanto pare. E questi sono i consigli dei videogiochi per Natale da Open Cast Alpha. And cookies and freezing snow, gingerbread houses and mistletoe. It's cold as far as I can see, decorating Christmas trees. So let's all go down south this year, and maybe we'll all just disappear on holidays. Let's all go down south this year. I'm getting tired of all this Christmas cheer. And we can all just float away on some Caribbean holidays. Go! Just to get away from all the snow, 'cause there's no way I'm gonna stay. I'd rather go on a holiday. Go! Opencast Alpha, il mio pezzo l'ho detto, basta, a posto. Come okay. Sei punk nella dai, scelta dei pezzi. Dai, che ci vuoi parlare di Steam per Linux, lo sappiamo. Dai, parlaci di Steam per Linux. Lo sappiamo. Vabbè, è uscito... Va bene, grazie. Ok, quindi no, Steam continua, per Linux. Dai. Linux, diciamo Linux, giochi, basta. Beh, mi sembra allora, riassunto no, un po'... No, no, un po' troppo... Leaky. Linux allora. Giochi. Se ti impegni di più, ti regaliamo un gioco open source. Open source. Ma vabbè, ma dove li trovi? Non ci sono. Su repository. Come sui repository? Su repository trovi i giochi open source. Ti consiglio di aggiornare la scheda video. No, allora, Steam è uscito su Linux finalmente in versione beta aperta a tutti. Allora, prima erano uscite i requisiti okay, per Linux. Per Linux. Che l'abbiamo detto la scorsa puntata. Adesso è uscito finalmente. La beta è diventata beta pubblica, non più beta chiusa. Siamo pronti. Ci sono 39 titoli disponibili. Ci sono alcuni giochi platform che sono un po' più 2D che 3D, per esempio Trine. Però c'è anche Team Fortress 2 che è gratuito. Accattateville. Che può essere interessante provarlo. C'è chi consiglia di aggiornare i driver della vostra scheda video. C'è invece chi consiglia di aggiornare la scheda video. Aggiornatevi un tubo, tenetevi quelli che ci avete dai repository che sono stable, probabilmente, spero, si spera. Sì, beh, dipende che distribuzione stai usando. Comunque, tra i progetti di Valve c'è questa Steam Box che potrebbe uscire addirittura nel 2013, che dovrebbe essere una sorta di PC collegabile alla TV. E insomma potrebbe essere una nuova console, qualcosa del genere, una via di mezzo. Ma... e Linux potrebbe essere la piattaforma principale, perché a quanto pare a Valve non gli piace tanto Windows 8. Strano, non capisco come mai. Bah. Ma non piace Windows 8 o il nuovo BIOS? No, perché si è messo insieme al piastrellista. Il piastrellista? Una delle figlie allora gli sta sulle balle, non si può. Non il si piastrellista? Può. Il piastrellista gli sta sulle balle, dice basta piastrelle. Perché gli ha fatto un lavoro brutto in casa. No, gli ha fatto un lavoro e basta. E... ma chi è che ha cancellato il video? Download completato? Porca miseria. Vabbè, 180 mega. No, sta passando il tempo, non vi dico scaricare che cosa. Vabbè, ragazzi, non ho la DSL a casa, ho tanto bisogno. Dei video di Natale, certo, certo. Infatti, sì, c'è assolutamente. Tante sono iscritto a un sacco di channel YouTube. Sì, ci sono però un sacco non, di posso, alberi però di non posso più guardare le cose in streaming a casa perché mi è finita la banda mobile di 1 GB. Adesso va a 32K il mio modem. Ma il tuo vicino qua. Non esiste? Il chi? Il tuo vicino. Ma il mio vicino non vuole darmi la password. Io non la voglio, sinceramente. Come il tuo vicino non vuole, cioè non vuoi la password del tuo vicino? Vabbè, non voglio prendere la password del mio vicino. Ah, va bene. Okay. Ho deciso che è il mio vicino, voglio essere onesto con lui. Per quale motivo, scusa, con noi non sei onesto invece? Così, perché mi sembra bello usare la tua rete, un gesto carino. Carogna. Bene, quindi Steam è andata così. E quindi Opencast Alpha, il podcast open source del gruppo Linux Como. Vi ricordo, su www.gl-como.it trovate tutte le puntate precedenti. Ma anche quella di Pasqua. Anche quella di Pasqua precedente, perché la successiva no, no. La troverai successivamente. Nonché i cedolini paga in formato PDF. Vabbè, auditi, dai. Va bene. Mi chiedo veramente, ma di giorno lui cosa fa? E potrete confrontarli con quelli dell'anno scorso. Il problema è che hai preso di meno? L'hai fatto bere. Ah, hai preso ecco. Di più? Cioè tu l'hai fatto bere e adesso lui è ancora bere. Stato bene. Ma è così, era così anche prima. Sì, insomma, mica tanto così. No, vabbè, ma quando è arrivato era così. Va bene. Bevi Pinot. Pinot. Oh mio Dio, Pinot. Non era così prima. Va bene. Il nuovo Raspberry Pinot. Penso che la cosa Rosé. Abbia raggiunto ormai il fondo, io penso che... Allora, diciamo una cosa, Opencast Alpha, sito www.gl-como.it, musica adagiamento, trovateci. I link alle canzoni che vi abbiamo fatto sentire stasera li troverete sul nostro sito. Probabilmente anche a tutti i siti delle Marche. Io volevo salutare gli amici di Linux Beard. Ciao! Un interessantissimo sito news di notizie comunque sul mondo Linux. Ma Beard Uccello. Sì, li trovate sul loro sito, li trovate su Identica, li trovate anche su Diaspora e potrete seguire tutti gli aggiornamenti interessanti. Li salutiamo, sono degli amici che ci fanno pubblicità e per cui mi sembra giusto ogni tanto. Ciao amici! Amicici! Va bene, è Natale, no. Natale, noi a questo punto andiamo a finire andiamo la bottiglia. Andiamo a finire la bottiglia e aprire i regali, finalmente. I regali, esattamente. Per cui vi lasciamo con quest'ultimo pezzo, dal titolo evocativo, di Wintertime. walking through streets of snow. Silent winter time, I love you so. You make me feel like a little child again. Twisting snowflakes hot in the sun, gently falling down, oh what fun. Hiding all the tears of yesterday. Trees and mountains white, winter sun so Pencast Alpha, il podcast tecnologico di impegnato del DL Como. Tutti i link e le puntate su www.dl-como.it. Amen.